Thank you. tale il vostro disegno? La norma dell'evento sia di stato, ma sta gelato in Roma. Mia sorella! D'attavanti! Sì, ma scusi, voliebbi abbigliamento. Lascio trattare, vesti in pelo e taglio. Di qualche occultore or comprendo per amor di sorella tutto è lasato onde sottrarmi a Scarpia Scarpia Scarpia Satiro che affina con le devote pratiche la foglia libertina e strumento al lascivo talento fa il confessore il boia la vita mi costa fino a notte mal sicuro che vuole il sole la cappella mette un orto mal chiuso poi c'è un canneto che va lunge per i campi a una mia villa minuta ecco la chiave innanzi sera mi raggiungo portate con voi le vesti femminili impenetrabile e sicuro! Thank you. Thank you.

Thank you. 今天的钢琴世界就到这里，感谢您的收听，欢迎继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。